9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 30 di maggio. Oggi è un santo nel calendario liturgico di quelli che si ricordano, perché San Giovanna d'Arco, quindi un'eroina, una visionaria, una mistica. Talvolta c'è bisogno di visioni, non dico di mistica, perché io voglio dire le visioni nel senso di credere molto in ciò che non sembra facile, perché questo è uno dei cammini attraverso i quali la scienza, lo sviluppo, il cimento, il provare e riprovare consente le conquiste della mente umana e ne consente poi la replicabilità in laboratorio di esperimento, ne consente la formalizzazione matematica. Questo è uno dei sentieri attraverso i quali, il sentiero attraverso il quale quel cammino graduale di uscita dall'oscuramento che ci eravamo dati da solo, l'Aufklärung, lo ricordate come lo diceva il maestro Kant, si è determinato ed è una delle caratteristiche del pensiero logico, formale, scientifico della modernità, no? Fin dall'origine del pensiero greco. Allora, oggi parliamo esattamente di qualcosa che ha a che vedere con questo. Vi ho annunciato, la trasmissione di oggi ha a che vedere con il nucleare, non ha a che vedere però con le conseguenze dell'incidente di Fukushima e con le conseguenze che ha esercitato questa ondata a catena, l'effetto domino, nelle decisioni di molti governi dei paesi avanzati o di sospendere o addirittura già di assumere la decisione di dare scadenze che prima non c'erano per l'uscita definitiva o molto estesa del nucleare a seconda di quanto quella fonte fosse importante per ciascun paese. Ma parliamo invece della fusione fredda, perché la fusione fredda da sempre, quando si fanno le trasmissioni sul nucleare, sia in vista dei referendum sia per le polemiche dopo Fukushima, è uno dei temi che sempre gli ascoltatori ci chiedono di approfondire. Io devo dire che ho in studio a fianco a me un giornalista che considero straordinario, perché fa della divulgazione scientifica da sempre di alto livello una cosa strepitosa. Lo fa anche per Radio 24, Mr. Kilowatt, lo conoscete benissimo, è Maurizio Meles, che è in studio qui al mio fianco e che ringrazio, perché con lui che ne ha parlato tra i primi in Italia facendo puntate che voi trovate se andate sul sito di Radio 24, con lui tenteremo di approfondire ulteriormente ciò che tra fine aprile e inizio maggio, i primi giorni di maggio, ha molto alimentato nuove speranze su questo filone della fusione fredda, che ricordate è un filone di quelli che reiteratamente però suscitano ondate di attenzione e poi di grande delusione dai tempi in cui ci fu la famosa polemica qualche anno fa, dopo che Martin Fleischmann e Stanley Pons avevano acceso enormi speranze e poi la loro promessa, il loro annuncio venne demolito per errori sulla replicabilità, sulla misura di quanta energia e di quanto calore si era prodotto attraverso la fusione fredda. Di che cosa parliamo quando parliamo di fusione nucleare fredda? Parliamo appunto di un processo attraverso il quale la fusione non avviene come nel Sole a milioni e milioni e milioni di gradi, cosa che lo rende dal punto di vista tecnologico non alla nostra portata, perché a quelle temperature non siamo in grado di fare niente su questa Terra. Pensate che ancora oggi non abbiamo capito se le strutture di contenimento sotto le vasche dove ci sono le barre di grafite della centrale di Fukushima hanno tenuto o meno. Con ogni probabilità abbiamo tutti capito che le barre sono andate in fusione in alcuni reattori. Il problema se la struttura di contenimento sottostante, che serve a impedire che le falde freatiche in profondità vengano poi contaminate, non siamo in grado di capire se hanno retto. Almeno io non ho trovato ancora informazioni tali per cui possa dire serenamente a chi ci ascolta, anche Maurizio Meles di fronte a me scuote la testa. Detto questo, a milioni di gradi noi la fusione nucleare non siamo in grado di farla. Il problema è: esistono delle modalità attraverso catalizzatori, attraverso altri sistemi, attraverso cui dei processi nucleari di fusione possono avvenire a temperature invece alla portata della nostra tecnologia? Questo è il punto. E c'è un annuncio di cui siamo in attesa degli approfondimenti. Adesso passo la linea a Maurizio Meles, perché un imprenditore italiano discusso, molto discusso, ha annunciato insieme a di aver realizzato con la cooperazione di uno scienziato italiano una metodologia che è già, lui sostiene, replicabile e già nella fase tecnologicamente avanzata, cioè in realtà loro stanno procedendo alla costruzione di alcune centinaia di catalizzatori che entro ottobre-novembre addirittura diventerebbero un impianto attivo da un megawatt in Grecia. Questo chi ha seguito la trasmissione di Maurizio Meli sa di cosa stiamo parlando, ma io adesso passo la linea a lui, passo la voce a lui e vi annuncio chi sono gli altri ospiti della nostra trasmissione per consentire di spiegare a un pubblico, ripeto a tutti, Maurizio lo sa ma lo dico anche ai nostri due ospiti, che non è di addetti ai lavori, che è vastamente, non vi arrabbiate voi a casa, ignorante di determinanti elementari purtroppo di fisica, tranne alcuni specialisti, li abbiamo già abbassato l'annuncio della trasmissione per ricevere molte mail di addetti ai lavori, ma in realtà nel nostro è un paese in cui quando si tratta di fisica, chimica, biologia, l'ignoranza di massa è purtroppo una delle caratteristiche che determina l'arretratezza a livello del nostro paese. Lo dico per gli ospiti, che non dimentichino quindi di parlare con un linguaggio divulgativo e piano, perché sono Francesco Celani, che è primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e vicepresidente dell'International Society of Condensed Matter Nuclear Science ed è collegato con noi. Buongiorno professor Celani. Buongiorno. E Stefano Bagnasco, che è ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e collaboratore del CICAP, il CICAP a cui più volte ci rivolgiamo perché è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Qui non stiamo parlando ovviamente di paranormale, però a lui spesso gli chiediamo di fare lo smascheratore, per così dire. Buongiorno anche a Bagnasco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Maurizio, ci vuoi fare il punto? Perché mi hai detto che su questa vicenda di questo imprenditore discusso che si chiama Rossi, che è stato protagonista anni fa di una vicenda, aveva annunciato una tecnologia per la quale dai rifiuti solidi urbani si faceva attraverso la condensazione per cracking delle molecole pesanti dei rifiuti, lui diceva noi possiamo produrre enormi quantità di petrolio, gas, carbone, eccetera. Il tutto finì in uno scandalo giudiziario. Ma al di là di questo imprenditore che si chiama il Petrol Dragon, si chiamava la sua impresa, sì. Al di là di questo imprenditore, le caratteristiche scientifiche di questo progetto che sarebbe già in una fase così avanzata, di cui però non viene detto niente perché dice siamo in attesa del brevetto, questa è stata la tesi di Rossi che tu hai intervistato mandando in onda in due puntate nella tua trasmissione La Cosa, quali sono le novità ulteriori che stamattina venendo in studio hai detto guarda che qui oggi c'è una cosa che arriva? Beh, allora su questo poi io credo che dovremmo chiedere delucidazioni e maggiori informazioni a Francesco Celani, che conosce molto bene e che insomma è anche la persona che mi ha insomma spiegato sabato sera, o meglio venerdì sera, che circola un'email di uno, diciamo, dei personaggi, un certo Brian Ahern, che è coinvolto da molti anni in questi studi sulla fusione fredda, il quale pare che abbia fatto un esperimento dimostrando il principio di funzionamento sul quale si basa in qualche modo anche l'oggetto, questo energy catalyzer inventato da Rossi, che ricordiamolo è un oggetto che si presenta come un tubo lungo mezzo metro di qualche centimetro di diametro, nel quale entra acqua del rubinetto, diciamo acqua fredda, e da qui esce acqua calda o vapore. Sembra che dei passi avanti siano stati fatti proprio in questi giorni, anche se non c'è ancora una pubblicazione scientifica, che insomma, quindi con tutti i crismi, questi passi avanti consisterebbero nell'aver provato addirittura una produzione di energia autosostenuta, cioè senza bisogno di dare alcun input energetico dall'esterno, questo piccolo campione di nickel trattato in un certo modo produrrebbe energia ogni volta che si inietta idrogeno, ogni volta che gli si butta dentro un pochettino di idrogeno. E nell'intervista a te, se non sbaglio, Rossi aveva detto che rispetto ai prezzi di produzione dell'energia attuale dalle fonti insomma abituali fossili del nostro mix, siamo a una scala? Qui siamo a un centesimo di euro per kilowattora. Questo ovviamente sarebbe da un lato un costo dell'energia con una tecnologia che sarebbe appena agli esordi. Dall'altro stiamo attenti perché questo costo, diciamo che in questo momento non tutti sono d'accordo che si possa fare una stima precisa. In realtà sarebbe un centesimo per kilowattora di energia e $2,000, 1.300 euro per kilowatt di potenza, e qua già entriamo dentro alla questione, si sa che cos'è la potenza, si sa che cos'è l'energia. Diciamo che se la potenza è la velocità, l'energia sono i metri, no? Diciamo, il rapporto che c'è fra energia e potenza è lo stesso. Allora, professor Cerani, diciamo, noi diamo un po' per scontato, perché non c'è il tempo per approfondire troppo tecnicamente, che però una parte del pubblico sappia che i dubbi sulla realtà fisica della riproducibilità dei diversi annunci che dall'inizio degli anni 90 sono venuti per le diverse tecniche di catalizzazione usata nei diversi scienziati, molti italiani anche tra l'altro, perché questo è un settore sul quale l'Italia vanta molte ricerche che sono state finanziate, NEA, CNR e così via, però una parte della comunità scientifica internazionale ha sempre alimentato vasti dubbi sulla realtà della, del fatto che siano fenomeni davvero nucleari quelli che possono produrre qualche rilevabile ma molto contenuto aumento nel bilanciamento di una reazione energetica per cui qualche cosa si produce alla fine. Ma alla luce di questi dubbi, la realtà di questa novità di cui siamo in attesa dei particolari nuovi, quali potrebbe essere a suo giudizio, professore? Allora, il punto penso importante è che intanto va dato atto all'ingegner Rossi che grazie alle sue all'uscita pubblica si è scatenata una sorta di gara nel trovare delle tecniche più semplici per produrre energie anomale rispetto a quelle tradizionali basate sul sistema Palladio deuterio. Quindi, usando un termine brutto ma rende un po' l'idea, una caterva di cantinari, ma gente esperta, non cantinari, nel senso praticamente in America. Cioè i cantieri nel senso che conducono le loro ricerche anche in sottoscala, non che siano di casa, gli stracciventoli. Molto spesso collegati però con grosse istituzioni, perché una cosa è fare l'esperimento, una cosa è fare le analisi successive che costano moltissimi soldi, cioè le attrezzature speciali, e quindi il cantinaro per quanto possa essere ricco non ha l'attrezzatura, il personale, non ce la fa. Quindi anche perché professore, alcuni degli più importanti report negli ultimi 15 anni sullo stato dell'avanzamento degli studi delle tecnologie sulla fusione fredda vengono per esempio negli Stati Uniti, vengono per esempio dalla Marina Militare Americana e così via. Infatti, cioè infatti, è un filone sul quale la ricerca militare non è del tutto disattenta per ovvie ragioni. Anzi, fin troppo attenta. Allora, il punto è fare questi esperimenti costa, ma non troppo. Fare le analisi fatte molto bene è estremamente complesso, quindi un certo numero di persone che hanno dei buoni rapporti con istituzioni pubbliche, in particolare in ambito militare e connesso, ha iniziato a fare delle prove a largo raggio, non convenzionali. Una di queste è il dottor Brian Ahern, che nell'ambito del mondo della fusione fredda, esiste una società scientifica internazionale che controlla la qualità delle persone prima di tutto e poi dei lavori che fanno, ha una buona reputazione, collabora anche con istituzioni giapponesi importanti, e venerdì sera è arrivato un mail che più o meno uno si aspettava, ma non così bello. Allora, il Brian ha fatto un composto basato su zirconia, nickel e rame. Zirconia e nickel è la stessa usata da Arata, è stato il precursore di tutto, e il rame è la novità. E al posto di usare il deuterio, che costa e ha vari limiti, ha usato l'idrogeno, l'acqua leggera. I laboratori della AMET. Aspetti, mi lasci dire, quando lei dice Arata, il nostro pubblico non sa che Yoshiaki Arata metà degli anni 90, inizio del 2000, è stato uno in Giappone, è stato uno di coloro che più ha fatto far passi avanti alla tecnica delle cellule di catalizzazione. Quindi ecco, questo è solo per dire, metto solo delle note a latere. Esatto. Allora, Arata nel nostro mondo è quasi un mito, è un personaggio fuori dalla norma, una cultura multidisciplinare, questo è il punto chiave. La multidisciplinarità è indispensabile, tutte le persone che si sono avvicendate nel campo della cosiddetta fusione fredda, che avevano una cultura monotematica, hanno tutti fallito. Bisogna avere una visione larga della scienza, un po' tipo rinascimentale. questo aspetto. E questo è ciò che fa dubitare poi una parte della comunità scientifica, infatti, invece. Perché purtroppo. Perché vi accusano di essere dei bruniani, cioè di avere un'idea un po' olistica. Il problema, secondo me, una parte non piccola della cultura dei miei colleghi, seguendo le mode americane, si sono iper specializzati, sanno fare solo una cosa e non riescono a guardare un po' di lato, e questo è pericolosissimo. Ma questa mail che sarebbe arrivata da Brian Allen, eccetera, lei dice molto positiva, perché molto positiva? Cioè cosa dice in realtà? Il punto è, lui ha fatto delle misure il cui valore assoluto è piccolo, ma fatte con un criterio scientifico estremamente rigoroso. Nessuno può dire che lui ha sbagliato, cioè o ha imbrogliato tutto, e mi sembra difficile che possa capitare, oppure qualcosa di molto importante, perché lui ha fatto le misure scientificamente inconfutabili. Ma queste misure sono state fatte su l'ICAT, cioè il catalizzatore, quello? Che cosa sono state fatte? Un materiale che probabilmente, che forse somiglia all'ICAT di Rossi e Fogati, forse è uno dei materiali possibili. Anche noi abbiamo sviluppato un materiale, guarda caso, estremamente simile a quello che ha sviluppato Brian Ahern. Il nostro lavoro, per evitare polemiche, lo abbiamo inviato alla Società Italiana di Fisica, che verrà mostrato a settembre. Non dimentichiamo, una delle grosse critiche polemiche è stato che Freshman e Pons hanno fatto una conferenza stampa e non mandato il lavoro a una rivista normale. Sì, e poi quando il lavoro fu pubblicato, insomma, era zeppo di errori. Ecco. Era quindi questa cosa ha ucciso la credibilità della fusione per un bel po'. Era la riproducibilità. Facevano 100 prove, ogni tanto qualcosa funzionava, ma non avevano assolutamente il controllo della reazione. Quindi loro hanno gettato il sasso nello stagno. In realtà non dimentichiamo che gli esperimenti di diffusione fredda, i primi, non sono di Freshman e Pons dell'89, ma di Arata nel 1958. Sì, quindi c'è una lunghissima storia dietro, fatta con estremo rigore scientifico, risultati modesti, bassi finanziamenti, però rigore scientifico inappuntabile. Freshman è un grandissimo personaggio nell'ambito scientifico mondiale, quindi non è un matto qualunque, ecco. Non aveva bisogno di gloria. Allora, certamente. Allora, nel frattempo si è collegato a noi Sergio Focardi, che è professore emerito di fisica sperimentale all'Università di Bologna. E il professor Focardi, per così dire, è uno dei personaggi chiave di questa vicenda, no? Direi proprio di sì, direi che è il padre praticamente di questa reazione nickel-idrogeno che sarebbe alla base dell'e-catalyzer di Rossi. Comunque Oscar, come senti, si sono scatenati in questo momento, diciamo, un po' dappertutto in giro per il mondo, tutti quelli che negli anni, dopo gli anni 90, hanno continuato, hanno tenuto duro, hanno continuato a lavorare su questo tema. In questi giorni puoi immaginare che cosa sta succedendo in quei laboratori. Allora, professor Focardi, in attesa della mail di cui ci parlava Celani, in realtà di questi catalizzatori, comprensibilmente Rossi dice: io sono in una fase di pre-brevettazione, quindi non voglio dire, tranne il fatto che sto già facendone la produzione seriale, perché questo è ciò che ha annunciato ai microfoni delle due puntate che Maurizio Melis ha mandato in onda, riproduzione seriale a centinaia di pezzi di questi tubi. Centinaia per costruire questo primo reattore, ma in realtà da novembre dovrebbero diventare 300.000 pezzi all'anno costruiti da questa azienda greca, la Defcalion, che avrebbe accordi appunto con Rossi. E Focardi, lei che cosa... intanto buongiorno. Intanto buongiorno e grazie ovviamente, però lei capisce che detta così chi è a casa, io vedo delle mail che dicono: bah, non ci stiamo capendo nulla, bah, non ci sarà mai la possibilità di avere una cosa simile. Purtroppo deve fare i conti da lunghi decenni, immagino, con questa atmosfera che è un misto di incredulità e di ipercredulità di chi non è del ramo. Sì, sì, certo, questo è stato uno dei problemi che ha rallentato lo sviluppo di questa tecnica, perché non abbiamo mai, io mi riferisco ora al passato, a 20 anni fa, insomma, non abbiamo mai ottenuto finanziamenti dagli enti di ricerca che hanno deciso di non finanziare questi processi. Mi riferisco all'Italia, naturalmente, non a tutto il mondo, e questo ci ha costretto a lavorare con notevole difficoltà. Poi per me fortunatamente le cose sono cambiate quando 3-4 anni fa ho incontrato l'ingegner Rossi, che aveva delle nuove idee, e ho cominciato a lavorare con lui, anche perché siccome nel frattempo ero andato in pensione ero libero di fare qualsiasi cosa. Ma questo tipo di ricerca nei suoi ultimi 3-4 anni di che ordine di grandezza, non le chiedo le cifre precise, ma di che ordine di grandezza di investimenti negati dalla ricerca pubblica aveva bisogno per arrivare a queste determinanti di cui poi apprezzeremo la realtà o meno tra pochissimo? Cioè quali, i capitali che servivano, quanti erano? Ma guardi, non lo so nemmeno, perché gli enti di ricerca che finanziano ricerche in questi campi avevano deciso di non finanziarle, per cui siamo stati costretti a prestiti di strumenti e operazioni di questo tipo che hanno rallentato tutto. Non che io voglia dar la colpa del tutto agli enti di ricerca, perché per il motivo per cui non siamo arrivati allora ai risultati, ma certamente lavorare senza le attrezzature non è stato una situazione ideale. Ora le attrezzature le abbiamo, e la cosa interessante è, da quando mi sono messo a lavorare con l'ingegner Rossi, il primo esperimento che abbiamo fatto ha dato immediatamente risultati enormi, e ci ha quindi convinto a procedere e andare avanti. Ma io credo che se parliamo di, diciamo, di cifre, intanto diciamo che probabilmente parliamo di ricerche che possono andare avanti bene con investimenti dell'ordine dei milioni, mentre se pensiamo per esempio alla fusione calda, al reattore che si sta costruendo a Cardassia in Francia, parliamo di 16 miliardi da spendere in qualche decina di anni per avere un oggetto il quale, se funzionerà, non sarà il prototipo di un reattore per produrre energia, perché mancheranno ancora tutta una serie di altri esperimenti. È già previsto un ulteriore esperimento che si chiama Demo, adesso qui non c'è tempo, diciamo, di entrare nei dettagli, però mi sembra che ci siano due cose importanti da dire per chiarire un po' anche tutta questa vicenda. Allora, il primo anche termine, nel frattempo riceviamo gli sms del tipo: visto come che dice, se aggiungiamo anche la coda di lucertola e il sangue di pipistrello produciamo anche loro, cioè lo scetticismo è vasto. Allora abbiamo due argomenti importanti. Il primo termine, riproducibilità. Che cosa vuol dire riproducibilità? Allora, in scienza le cose funzionano in questo modo: un signore fa una scoperta, fa un esperimento, pubblica un articolo nel quale spiega esattamente come ha fatto questo esperimento, in modo tale che persone esperte quanto lui siano in grado di replicare questo esperimento. Non solo devono replicarlo, devono anche trovare gli stessi risultati. Allora, il problema della riproducibilità è il problema che affligge dall'inizio tutta questa vicenda della fusione fredda. Si faceva l'esperimento 100 volte, una volta riusciva e 99 no, e non si capiva se si aveva fatto un errore di misura quella volta che era riuscito, o se viceversa non si era capito qualcosa rispetto all'esperimento le altre 99 volte. Ora, questa problematica della riproducibilità, che era al massimo nell'89 quando Fleischmann e Pons venirono fuori con il loro annuncio, piano piano negli anni si è ridimensionata, al punto che oggi diversi gruppi di ricercatori affermano di essere in grado di fare ricerca, di fare esperimenti che hanno una riproducibilità assoluta. E questo, sono parecchi gruppi sparsi in giro per il mondo, non c'è un personaggio che è venuto fuori dopo 20 anni ad affermare questo. Il secondo aspetto importante, che riguarda invece l'Energy Catalyzer, il punto non è qui se il signor Andrea Rossi è credibile o non è credibile, e se il signor Andrea Rossi ha fatto l'invenzione del secolo. Cioè, è chiaro che di personaggi che reclamano di aver fatto l'invenzione del secolo ce ne sono una dozzina tutti i giorni. Qui il dato, la notizia giornalisticamente parlando, e diciamo, l'elemento di più concreto è che ci sono stati almeno 3 ricercatori totalmente estranei alla vicenda: un fisico italiano che si chiama Giuseppe Levi, 2 fisici svedesi, uno Anno Essen, presidente per 3 anni della Skeptics Society, la società che fa la lotta alle frodi scientifiche, della Skeptics Society svedese, l'altro Sven Kullander, che è addirittura il presidente della Commissione per l'Energia Nucleare dell'Accademia delle Scienze Svedesi. Quindi personaggi di rilievo assoluto, credibili dal punto di vista scientifico e totalmente estranei alla vicenda, hanno avuto modo di testare questo oggetto e sono arrivati alla stessa conclusione, cioè che questo oggetto produce energia di tipo nucleare. Perché si arriva a questa conclusione? Non potendoci guardare dentro. Perché c'è questo problema di brevetto per cui Rossi non fa aprire la macchina dentro la quale c'è qualcosa. Io sono convinto di abbastanza semplice, per ragioni che se poi voi possiamo provare a spiegare. Ma qual è il dato? Che si butta dentro una quantità di energia elettrica molto piccola. Si butta dentro acqua fredda, si tira fuori acqua calda. È banalissimo calcolare, un calcolo da liceo scientifico, calcolare quanta energia è stata ceduta all'acqua. E questo tubo di mezzo metro e largo 5 centimetri produce decine di 10 kW di potenza per un numero di ore illimitato. Giuseppe Levi l'ha spento dopo 19 ore perché doveva andare a dormire. Là c'è un limite alla quantità di energia chimica che si può immagazzinare in un volume di quelle dimensioni, per cui gli scienziati sono costretti a ipotizzare delle reazioni nucleari per giustificare quella produzione di energia, sebbene non ci siano alcune firme tipiche delle reazioni nucleari come certe radiazioni. D'altra parte ti domando, Oscar, le lo domando gamma, anche per esempio. Raggi gamma in realtà pare che ci siano anche se in piccole quantità, per fartelo dire. Ma il pericolo sarebbero i neutroni, perché molte reazioni nucleari liberano neutroni. I neutroni sono difficilissimi da schermare, sono anche molto più pericolosi, esatto, delle reazioni, insomma, dei raggi gamma. Questi sono un po'. Naturalmente anche le condizioni nelle quali gli scienziati che ha richiamato Maurizio hanno detto no, qui c'è una produzione di energia che è irrevocabile e inequivocabilmente, viste le determinanti di quello che abbiamo visto, è di tipo nucleare. E naturalmente, siccome è avvenuto in condizioni chiuse dell'apparecchio, ovviamente gli altri continuano a essere scettici, essere continuano dubbiosi, per esempio, certo, a chiedere ma che cosa c'è di diverso rispetto alle vecchie celle, quella di Piantelli, Focardi, che poi rimesse alla prova, dicono gli scettici, non hanno funzionato. Adesso naturalmente ci dobbiamo focare di collegato. Quindi tra l'altro c'è un'altra domanda che mi piacerebbe anche fare. Se queste reazioni avessero prodotto le firme nucleari che noi ci aspettiamo, forse le avremmo scoperte un po' di tempo prima. Perché avremmo trovato, come dire, esattamente quei segnali che ci aspettiamo da delle reazioni nucleari. A quel punto non avremmo potuto che riconoscerle. Forse se non le abbiamo riconosciute, questo può essere una buona ragione. Mi piacerebbe chiederlo. Ora pubblicità e poi ricominciamo da questo interrogativo. Eccoci tornati in studio, siamo qui con Maurizio Melis, alias oramai malgrado tutto, con tutti i suoi titoli, Mr. Kilowatt, per questo, per chi segue Radio 24. Per tutta la vita. Sono collegati con noi Stefano Bagnasco, l'abbiamo ancora chiesto poi cosa penserà lui di tutto questo, ci crede o non ci crede, il professor Sergio Focardi, Francesco Celani. Ricordiamo, ripartiamo dal punto, molti ascoltatori ci chiedono: ma di che cosa state parlando? Ma cos'è sta fusione fredda? Tentiamo di spiegarla, allora, Maurizio. Che cos'è la fusione nucleare? Perché poi caldo o fredda, sempre fusione. Allora, gli atomi hanno dei nuclei. Immaginate che siano delle palle da biliardo. Proviamo a farle in questi termini. Come un po' la testa mia e tua che non abbiamo molti capelli. Esatto. Immaginate che siano delle palle da biliardo. Queste palle da biliardo però si respingono fra loro, come due calamite, diciamo, quando avviciniamo gli stessi poli. Quindi è molto difficile farle avvicinare. Però immaginate che in più queste palle abbiano anche una superficie ricoperta da una colla estremamente potente. Allora è molto difficile fare avvicinare queste palle, perché appena le lanciate una verso l'altra si respingono e deviano. Ma se appena riuscite a farle entrare in contatto, scatta un'altra forza, che si chiama forza nucleare forte, ma lasciamo perdere. Questa colla appiccica, incolla queste due palline in modo assolutamente strettissimo. In questa operazione, in questo istante, nel momento in cui queste due palline si incollano, viene liberata una grande quantità di energia. Questa cosa si chiama fusione nucleare, vale per gli atomi leggeri, per i nuclei leggeri, ed è l'opposto della fissione. Restando sullo stesso, diciamo, esempio del biliardo, la fissione è il contrario, cioè si spaccano dei nuclei molto grandi, esattamente come spaccate il triangolo di palline quando iniziate una partita di carambola, diciamo. La caratteristica della fusione fredda è quella di poter avvenire a temperature, esatto, che non sono, esatto, elevatissime, esatto, nell'ambito perché dei normalmente miliardi. Quali sono le condizioni in cui si riescono a far cocciare queste due palline? Devono essere queste palline molto numerose, quindi pressioni molto elevate, ci devono essere tante palline in giro, e devono essere lanciate a grande velocità per riuscire a superare questa repulsione, e questo corrisponde in termini macroscopici a una grandissima temperatura, per cui abbiamo tanti nuclei lanciati a grande velocità e molto fitti in grande numero. Questo accade normalmente dentro nel nucleo delle stelle, dove la gravità comprime tutti questi nuclei atomici e la temperatura è di alcune decine di milioni di gradi o addirittura alcune centinaia di milioni di gradi. In queste condizioni la fusione avviene. Ora la domanda è possibile che a condizioni di temperatura di qualche centinaio di gradi però delle pressioni che in realtà sarebbero elevate, perché stiamo parlando di un gas che però si è diffuso dentro al reticolo di un cristallo, una specie di maglia che lo ingabbia strettamente. È possibile che queste reazioni vengano tra atomi di idrogeno, tra nuclei di idrogeno e un metallo, vengano favorite dalla presenza di questo reticolo cristallino, cioè di questo metallo? Perché attenzione, quando parliamo di fusione fredda parliamo sempre di un metallo, tecnicamente un metallo di transizione, ma non entriamo nei dettagli, un metallo con un cristallino cubico, tanti cubi li immaginiamo facilmente tutti, e di un gas che poi di idrogeno o deuterio, che è comunque una forma di idrogeno, che penetra in questo metallo e là dentro avvengono queste reazioni. Ecco, quindi capite, il meccanismo si può chiamare catalizzatore proprio perché è la somma di questi due elementi. E perché che... in questo caso, nel caso di Rossi, si parla di catalizzatore perché ci sarebbe proprio, esatto, un ingrediente segreto che alcuni scienziati pensano anche di sapere a cosa serve. Tu hai una domanda che volevi rivolgere a Focardi, ti avevo interrotto lì prima della pubblicità. Ah beh sì, la mia domanda iniziale era se non è abbastanza ovvio, ma forse interessa, è anche una domanda a fare a Bagnasco questa, tra l'altro, se non è ovvio che se noi avessimo avuto delle, se queste reazioni esistono, e sono tanti i ricercatori però che a questo punto dicono che in qualche modo esistono, se avessero prodotto le firme nucleari che producono le reazioni normalmente in condizioni, nelle condizioni che conosciamo, è ovvio che avremmo scoperto queste reazioni prima, perché queste firme sono molto evidenti, parliamo di radiazioni anche molto dure, facili da identificare con degli strumenti neanche troppo sofisticati. A questo punto dico, non è ovvio che se abbiamo delle reazioni completamente nuove, che hanno delle firme nuove, questa è la ragione per cui ci sono sfuggite per tanti anni e non ci dovremmo sorprendere più di tanto. Allora, prima Focardi e poi Bagnasco, risposta la domanda. Dunque, le firme effettivamente esistono, perché io mi riferisco al caso del nichel e dell'idrogeno, dove noi abbiamo sperimentato a lungo. Quando avviene il processo c'è una debole emissione di raggi gamma, debole e importante, perché in questo modo, con uno schermi di piombo attorno al volume in cui questa reazione avviene, si frenano, si catturano i raggi gamma e questi non vengono all'esterno, per cui non c'è nessun pericolo di radioattività. Noi questo fatto l'abbiamo sperimentato ormai numerose volte, per cui è necessario che quando uno costruisce questi apparati ci metta un piccolo spessore di piombo. La fortuna ha voluto, e questo è sempre stato una delle mie preoccupazioni, che non ci sia emissione di neutroni, perché se ci fosse emissione di neutroni il problema dello schermaggio diventerebbe estremamente un po' più complicato. Ecco, diciamo così. Si schermano anche i neutroni, sì, ma questo farebbe crescere le dimensioni. Qualche metro cubo d'acqua ci vorrebbe, no? Sì, acqua, boro, cioè dico, ci vuole... Insomma, per fortuna non ci sono. Io ne sono più che certo, perché durante tutte le ultime sperimentazioni con Rossi ho sempre raccomandato a Rossi, anche quando non c'ero io, ci fosse durante, in generale c'ero anch'io, durante la sperimentazione dei misuratori di neutroni presenti per controllare che se c'erano o no, e non ne abbiamo mai trovati. Questo, diciamo, è una cosa estremamente importante, altrimenti, anziché essere un oggetto di piccole dimensioni... Diventa un po' più rilevante, soprattutto immagino che anche le obiezioni sul pericolo di questa tecnologia sarebbero esponenzialmente più elevati, quindi si perderebbe un bel po' di tutto l'alone. Bagnasco che dice? Sì, sono d'accordo che se le reazioni fossero delle reazioni, diciamo così, convenzionali, probabilmente le sarebbero state identificate più facilmente. Questa è un po' una delle difficoltà, ci sono due difficoltà secondo me con questa apparecchiatura. Dopodiché tutto è possibile, effettivamente questa è la prima cosa che si vede, è che la produzione di energia rispetto agli esperimenti di fusione fredda fatti finora è macroscopica, quindi dovrebbe essere facile da misurare, anche se anche lì si possono fare degli errori sottili. Dunque, dicevo che ci sono un paio di caratteristiche che bisognerebbe tenere presente, e cioè il fatto che intanto di questa cosa non abbiamo una teoria che la spieghi. Questo non c'è niente di male, nel senso appunto, che è successo molte volte nell'avanzamento della scienza. Qualcosa che il fenomeno sia stato scoperto sperimentalmente prima di avere una teoria, e adesso stanno cominciando a comparire le prime teorie, che però non possono essere tanto convenzionali, perché devono sia spiegare la produzione di energia, sia spiegare il fenomeno della fusione, se di fusione si tratta, sia spiegare l'assenza delle segnature che ci aspettiamo, che pure in altri casi in simili circostanze venivano trovati, perché se non ricordo male nei primi studi del professor Foccardi con Piantelli a un certo punto erano stati visti sia gamma in una quantità ragionevole, sia anche neutroni. Quindi insomma bisognerebbe trovare una teoria che riuscisse a incastrare tutte queste cose, teoria che per adesso manca. Questo è il primo passo, ma non è niente di male. Secondo? Il secondo punto è appunto la sperimentazione. In realtà adesso non sono state fatte delle vere sperimentazioni su questo dispositivo. Sono state fatte delle dimostrazioni pubbliche in cui i fisici presenti, pur autorevoli, non hanno avuto modo di condurre le misure nella maniera in cui avrebbero voluto. Erano fatte alle condizioni di Rossi, in condizioni molto, molto vincolate. E devo dire che tutti, io ho parlato con praticamente tutti i personaggi coinvolti, compresi i fisici svedesi, e sono tutti abbastanza concordi nel dire sì, questo è molto promettente, effettivamente abbiamo visto la produzione di energia, ma per essere veramente sicuri bisognerebbe fare degli studi in maniera completamente indipendente, cioè prendere uno di questi affari, anche giurando di non aprirlo, di non guardarci dentro per non violare il segreto industriale, ma fare le misure come vogliamo. Perché? Perché se uno fa delle misure avendo già un apparato lì pronto, non può immaginarsi tutti gli errori che si possono fare. Allora, si può immaginare, si può mettersi al sicuro dagli errori, e diciamolo pure, ma insomma senza accusare nessuno, dai trucchi che riesce a immaginare, ma non può mettersi al sicuro da altre cose che non riesce a immaginare. Quello che si deve fare è progettare l'esperimento da zero, usando gli strumenti che si reputano necessari, eccetera. Anche da questo punto di vista ci sono delle cose positive, bisogna dirlo, assolutamente, perché Rossi sembra ben disposto col tempo a mettere a disposizione il suo strumento ai fisici dell'Università di Bologna e credo di Uppsala per fare queste misure. Adesso questo non è ancora successo. No, questo però è quello che ha annunciato e che è prossimo ad avvenire. Sì, vero? In realtà sembra che tra un mesetto giù di lì, intorno al 20 di giugno, questa è la data che è circolata, però è da confermare, avverrà qualcosa di questo genere, però in Grecia il governo greco nominerà una commissione che di saggi, insomma, dovrebbe essere fatto questo tipo di prova, però appunto in Grecia, e quello che verrà verificato è che l'oggetto produce energia secondo le affermazioni di Rossi, quindi almeno con un guadagno 6 rispetto input output, diciamo, di energia, e che l'oggetto non emette radiazioni nocive per la salute. Questo è il test che verrà fatto in Grecia. E comunque questa cosa che chiede Bagnasco la chiedono tutti. Esattamente, è assolutamente corretta. La singolarità è che noi viviamo una riproducibilità dell'oggetto tecnico in questa fase, in vista di una centrale di 1 megawatt, e tutto avviene nell'ultimo paese del cui uno se lo aspetterebbe, cioè la Grecia, perché è la Grecia forse in cui è quella in cui Rossi ha trovato il finanziatore. Devo dire che il finanziatore, io sono andato a certificare la qualità del fondo, è un finanziatore, diciamo, la cui qualità nella comunità internazionale della finanza non è molto elevata, quindi ovviamente io sono obbligato a pensare un po' male, non solo perché Rossi ha commesso degli errori nel passato, perché Petrol Dragon è un errore e lui stesso lo ammette, ho fatto un mucchio di stronzate, scusate il termine. Allora, a volte i grandi passi avanti avvengono anche perché la scienza, il progresso si avvale di manigoldi. I corsari hanno dei tagliagoli che però hanno messo in crisi un impero che funzionava semplicemente come estrattore di risorse preziose nel Sud America. Sto parlando dell'impero spagnolo, hanno fatto fare un enorme passo avanti, vele e cannoni, insomma chiunque ha studiato, ecco, erano dei bei tagliagole, e a me a volte i tagliagole piacciono, però ho dei dubbi, nel senso che, parliamoci chiaro, se uno ha avuto importanti risorse finanziarie per investimenti e arriva immediatamente alla replicabilità industriale prima di esperimenti che consentano quello che Bagnasco chiede, che tutti chiedono, che tutti quanti noi abbiamo titolo per chiedere, che adesso è annunciato, avverrà a giugno, ma fino a questo momento noi non possiamo dire a voi che a casa è già avvenuto. Ovvio che io devo pensare che intanto tu porti a casa i finanziamenti, li hai utilizzati appieno, te ne sei fatta dare per passare dalla prima fase della ricerca del professor Foccardi alla fase della riproducibilità tecnica, che è quella in corso. Dopodiché, se sei un filibustiere vero, potrei dire ops, perché intanto i soldi li hai belli utilizzati e presi. Questo è un rischio, io non dico di no, Però noi siamo sinceri, vi stiamo parlando di questa roba che ha delle potenzialità enormi. Voi capite che se c'è un bilancio di 6 volte l'energia prodotta rispetto a quello immessa nel processo, a costi così bassi e con cose con sì, queste poi conseguenze, in realtà questo 6 potrebbe essere una specie di limite inferiore. Ecco, io però una precisazione su questo devo farla, Oscar, perché secondo quello che afferma Rossi, finora i soldi ce li ha messi lui, e anche questo reattore da 1 megawatt i soldi ce li metterà lui. Gira voce in realtà di almeno un paio di soci che però non sarebbero quelli della Petrol Dragon. Comunque la transazione, questo lo dice anche il vicepresidente della Petrol Dragon, la transazione economica tra Rossi, non della Petrol Dragon, chiedo scusa, di Defcalion Green Technology, questa azienda greca, o meglio insomma questa società greca che avrebbe un sacco di finanziatori anche di cui non si sa il nome, insomma questo non si sa, ma la transazione economica avverrebbe alla consegna di questo reattore funzionante. Quindi se qualcosa non va, in teoria Rossi resta, diciamo, senza risorse. Esistono anche possibilità per la finanza internazionale di realizzare non qualcosa intorno a queste. Detto questo, noi adesso ci vogliono tagliare la gola, noi intanto, altro che i corsari, perché siamo in ritardo con le informazioni sulla circolazione stradale, e poi torniamo per le conclusioni. Vedete quanto è appassionante la ragione di Giovanna d'Arco. Stiamo toccando solo pochissimi argomenti, perché io parlo troppo, come sempre, facile memorizzo, mi dà tanti calci, su pure la gamba che sta male. Strade. Allora, rapidissimamente dobbiamo andare a un ultimo giro di opinioni. Io comincerei dal professor Celani. Come graduare l'attesa, se uno dovesse dare un giudizio di ottimismo o pessimismo, professor Celani? Ma come tutti penso sanno, nell'ambiente io mi sono spesso arrabbiato con il Rossi, perché gli esperimenti che ha fatto in pubblico non erano mai completamente esaurienti, mancava sempre qualche cosina per essere soddisfatti, e questo è un peccato, perché una ricerca così importante deve essere fatta bene, è troppo importante per lasciare qualche dubbio alle persone che stanno lì a guardare, che alcuni sono esperti, per cui le cose vanno fatte in maniera perfetta. Non è che uno vuole essere cattivo, pignolo, ma è troppo importante per lasciare i dubbi in giro. Se questo esperimento è corretto, può cambiare le sorti del mondo. Tante guerre folli smetterebbero immediatamente. Insomma, è troppo importante. Quindi, ma perché attendere? Se la mettiamo così, prevalgono i guerrafondai. Temo che il risultato inizialmente sarebbe più quello. Comunque. Temo di dover dire questo. Comunque, possiamo fare una promessa? Io ringrazio Francesco Chelani, Stefano Bagnasco, Sergio Focardi. Possiamo fare una promessa? Io mi appoggio solo alla scienza, alla competenza e alla capacità divulgativa e alla passione di Maurizio Meris in questo, per farlo. Seguiamo passo da questa radio, nella tua trasmissione, nella mia, ma in maniera congiunta. Qualunque passo di questa vicenda, perché è così rilevante. Ragazzi, a caso, però, vogliamo ripassare un po' di fisica? Qua sono arrivate delle osservazioni che proprio da stangaggio assoluto, ragazzi. Cioè, noi non potete farmi domande, c'entrano gli esperimenti di Tesla. Cioè, tentiamo di uscire fuori. Però tutte le volte che si parla di fusione fredda c'è qualcuno che salta fuori con Tesla. Capito, che salta... Lo dico con rispetto di... per il suo filone, ma tentate di guardare meno Giacobbo in televisione. Ecco, abbiate pazienza. Questo sposo è... sottoscrivo un pochino più, ecco, numerini, MKS, CGS, come dico sempre alla prima lezione, di che cosa sono i numeri. Grazie a tutti, appuntamento a domani, grazie a Maurizio soprattutto, grazie, senza grazie. Di lui oggi non c'è la trasmissione, a domani in Regione Radio.